noche del fuego, que yo no sé ancora, y mi bacio a te, y tuoi baci a me, ce li porta al mare. Del tuo cuore che ci unisce ancora, i miei baci a te, i tuoi baci a me, ce li porta al mare. Quando un giorno saremo nella nostra cabeza sul mare, ogni sera dalla mare sentiremo la più bella canzone d'amore. E i tuoi baci a me ce li porta al mare. Il mare è la voce del mio cuore, è la voce del tuo cuore che ci unisce ancora. E i tuoi baci a me ce li porta al mare.